si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Staremo insieme fino alle 11. Se volete interagire con noi in tempo reale, da subito ci trovate su Facebook, la pagina del programma Si può fare, trattino Radio 24. L'account Twitter è chiocciola Si può fare 24. Il mio è chiocciola Ale Maurizi. Parleremo della legge regionale della Lombardia contro la cementificazione. Cercheremo di capire più avanti se è una buona notizia, cioè se davvero si mette uno stop alle nuove costruzioni in questa regione già super iper cementificata, oppure se, come sostengono alcune associazioni ambientaliste, invece è più che altro un'occasione persa. Tutto questo dopo che il ministro dell'ambiente Galletti ha detto, l'avete sentito, mai più condoni, è un omicidio colposo quello dei condoni. Insomma, il governo ha in cantiere anche lui una legge contro, insomma, le nuove costruzioni sul terreno già fragile e sempre più distrutto, diciamolo, dell'Italia, perché poi passata l'emergenza delle alluvioni ce ne dimentichiamo, ma questa è la realtà. In attesa di questo si muovono le regioni, capiremo come si è mossa la regione Lombardia. Questo però più avanti, adesso cominciamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora cominciamo con il Corriere della Sera, titolo principale al sì dell'Europa all'Italia, via libera sui conti, nuovo esame a marzo, il governo riconosce poi i ritardi sulla giustizia, insomma indicazioni positive arrivano dai tecnici di Bruxelles, ora toccherà alla Commissione Europea. C'è un altro, il secondo titolo principale del Corriere è dedicato agli esteri, all'intervista al presidente egiziano Al-Sisi, abbastanza interessante, dice: garantiremo la sicurezza di Israele, una proposta originale, dice, siamo pronti ad inviare forze militari all'interno di uno Stato palestinese, aiuteremo così la polizia locale e rassicureremo gli israeliani. In questa prima intervista a un giornale occidentale del presidente egiziano si fa questa promessa, insomma, di intervenire direttamente nel campo del futuro Stato palestinese per garantire la sicurezza di Israele. E questo è una proposta interessante. A proposito della lotta al terrorismo internazionale, naturalmente all'ISIS, il presidente egiziano Al-Sisi sul Corriere dice: noi combattiamo anche militarmente contro il terrorismo, ma siamo al contempo consapevoli del fatto che nessuno potrà fermare la minaccia senza una vera lotta alla povertà. Andiamo sul Corriere, dove troviamo il titolo su Repubblica, scusate, dove troviamo il titolo principale sulla Rai. Ecco, la riforma Rai, al vertice un top manager e il canone all'interno dell'IRPEF. Se ne parla da un bel po'. Queste sono le notizie che mette insieme Repubblica con Carmelo Lopapa, che dice: la rivoluzione Rai si consuma in tre step, ma da portare a compimento con un blitz di poche settimane, al più tra fine dicembre e primi di gennaio, con provvedimenti del governo. Canone di 65 euro annui a fronte dei 113 e mezzo che si pagano adesso, che verrà inserito nella bolletta elettrica o nella dichiarazione dei redditi. L'importo sarà rateizzato, si paga per ciascuna abitazione posseduta, non in base al possesso della TV, quindi anche eventualmente su una seconda casa, cioè chi ha una prima casa e una seconda casa, il canone si dimezza ma si paga due volte, quindi non cambia nulla. Chi invece ha una casa sola, canone dimezzato. Gettito stimato 1,8 miliardi, un disegno di legge di riforma del governo da approvare in aula entro maggio. Il consiglio di amministrazione della RAI passa da 9 a 5 componenti eletti dal Parlamento, il presidente sarà indicato dallo stesso consiglio e poi eletto dalla commissione di vigilanza della RAI. Queste le notizie per quanto riguarda appunto l'azienda da TV di Stato da parte di Repubblica. La questione di Landini, dopo tutto quelle dichiarazioni sulla presunta, diciamo, disonestà degli italiani che votano Renzi, Landini sul Fatto Quotidiano, Landini sì, Renzi non fa nulla contro i disonesti. Il segretario della FIOM rinforza quel concetto dopo aver detto anche lui che era una frase infelice, una mezza sciocchezza. Adesso però riprende questa argomentazione e l'approfondisce. Così dice: l'onestà è un problema vero. L'Italia ha 60 miliardi di euro di corruzione, 180 miliardi di evasione. Il falso in bilancio che non è reato, nessuna legge sul rientro dei capitali. Ma questo è il punto che non si vuole affrontare. Perché il governo su questo non fa decreti? Si domanda Landini. Perché non ha la stessa forza che ha messo sull'articolo 18? Sì, volevo porre la questione morale. I lavoratori sono la parte onesta e c'è un problema, una parte disonesta del paese contro cui non si interviene. Chi è onesto non conta nulla. Si fanno leggi che continuano a garantire ai disonesti di fare i disonesti. Insomma, sul Fatto Quotidiano intervistato Landini, dopo aver appunto fatto un parziale retromarcia sulle sue frasi, adesso trova un modo invece per rinforzare questo concetto. È una lettura opposta a quella che dà Il Giornale, sempre su Landini, che in prima pagina, tra i titoli principali, mette: sinistra in estasi per le volgarità dell'urlatore rosso Landini. E c'è un articolo, un commento di Vittorio Feltri sull'ascesa del leader della FIOM, che dice Feltri imperversa in tutti i talk show, in tutte le televisioni. Insomma, è colpa anche dei media, secondo Feltri, se Landini sta acquistando un certo ruolo, un certo potere. Torniamo al via libera dell'Europa, alla legge di stabilità italiana, che è il titolo principale che occupa la pagina, la prima pagina del Sole 24 Ore. Via libera di Bruxelles alla legge di stabilità. Scrive così il quotidiano di Confindustria: la Commissione europea si prepara a dare il via libera alla legge di stabilità. La decisione, che avrà il visto formale la settimana prossima, è trapelata dopo il consueto incontro dei capi di gabinetto. Bruxelles invita Roma ad andare avanti con le riforme e non farà partire alcuna procedura, riconoscendo che nel 2014 ci sono state circostanze eccezionali. A marzo però in arrivo il nuovo esame. Altro giornale, altra notizia, Il Giorno, che è il titolo principale sull'Unione Europea, che ci rimanda a marzo, ma poi si occupa degli stipendi d'oro. La nostra inchiesta salta il tetto per i dipendenti delle Camere. La beffa degli stipendi d'oro è il titolo. Leggiamo: Camere, la beffa degli stipendi d'oro, così i dipendenti sforano il tetto. Cifra massima di 240.000 euro prevista, sì, ma con bonus e privilegi questi stipendi resistono ai tagli. Scrive Alessandro Farrugia: dipendenti della Camera e del Senato, forti dell'autonomia regolamentare del Parlamento, godono di privilegi che gli consentono di sforare il tetto. Aggiunge però Farrugia, giustamente, sia chiaro, in tempi di crisi, su indicazione dei presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, gli uffici di presidenza di queste due istituzioni, la sforbiciata l'hanno fatta. Nel triennio 2015-2018 risparmieranno quasi 97 milioni, 60 la Camera e 37 il Senato. Cioè, i tagli sono stati fatti, però ci sono questi privilegi in capo ad alcuni dipendenti di Camera e Senato che resterebbero, soprattutto per quanto riguarda le loro retribuzioni. Il Messaggero si incarica di darci un'altra notizia che riguarda la Croce Rossa. Bene, sì, si privatizza, via tutti i volontari in divisa, troppi debiti. Scrive Il Messaggero: allarme Croce Rossa, dopo 148 anni un decreto sancisce la fine del corpo militare dei volontari. Un decreto del 2012 ne prevede la soppressione come ente pubblico. Al suo posto nascerà una società privata con pochissimi dipendenti. La Croce Rossa ha accumulato negli ultimi anni troppi debiti, quindi questo è quello che succederà, ma la soluzione trovata mette in allarme i vertici: perderemo 20.000 volontari. Un'altra giornale, La Stampa: l'Unione Europea promuove i conti italiani, il titolo principale. Ci interessiamo però di un approfondimento che è questo, è curioso. Belle arti, agli italiani non piacciono più. Boom di iscritti tra gli stranieri e in particolare tra i cinesi. Sentite qua. L'Accademia delle Belle Arti, la culla delle tecniche che hanno reso grande l'Italia nel mondo, sono dominio degli studenti cinesi. e di cinesi che non pagano le tasse perché dichiarano di avere un reddito nullo o quasi. Nell'anno accademico 2012-2013 gli studenti in arrivo da Pechino, Shanghai e dintorni rappresentavano più della metà del totale degli iscritti alle accademie di belle arti. L'anno scorso erano 2.885 su 4.581. C'è anche un problema economico se a non pagare le tasse sono la stragrande maggioranza di questi studenti che dichiarano redditi nulli. Come possono reggersi le accademie? Il Ministero dell'Università ha proposto, ha promesso di intervenire. Intanto questa è la, la situazione. Dove invece i cinesi sono, arrivano da Salvatori è alla Breda Menarini Bus, e questa ve la diamo come buona notizia, perché è stato firmato in settimana l'accordo per salvare questa storica azienda che produce autobus insieme alla Irisbus di Avellino. È stato firmato questo accordo per cui arriva la King Long cinese con l'80%, il 20% rimarrà a Finmeccanica. Scongiurata la chiusura, si dovrebbe creare un polo della costruzione di autobus in Italia. È curioso che il polo degli autobus italiani sia fatto da un proprietario cinese, ma evidentemente non c'erano altre soluzioni. I lavoratori, i sindacati sono contenti per ora perché si scongiura la chiusura. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Adesso è il momento, come ogni domenica a quest'ora, di andare a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Voliamo alto con Armando Massarenti, direttore curatore responsabile del domenicale. Ciao Armando, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buona domenica a tutti. Anche a te Armando. Allora, oggi, bentornato anche a me, stavi per dire. Bentornato, certo. Eh sì, ho avuto una pausa, lo ricordo, magari ascoltatori la domenica, per un po' non mi avete sentito, mi sono beccato una bella polmonite. Copritevi d'inverno, ve lo dico come consiglio personale perché a me è capitato. Niente di grave, adesso va tutto bene. Armando, facci sognare. Ma guarda, come avrai visto questa settimana, apro io con un mio articolo in copertina su sì. Intitolato A Cesare quel che è di Cesare, dove questo Cesare in realtà è Cesare Beccaria, uno dei nostri grandi pensatori italiani, forse non troppo, che avrebbe dovuto essere ricordato un po' di più in questo anno che sono, che è quello esattamente dei 250 anni dei delitti e delle pene. Però si è detto poco, in effetti, è vero. Non si è detto molto, anche perché dei delitti e delle pene è di un'attualità straordinaria. Io infatti lo leggo ad un documento che noi pubblichiamo della Fondazione Veronesi, coordinato da Paola Severino, l'ex ministro della giustizia, che ci invita, questo nelle pagine interne, a considerare il carcere e la giustizia penale in generale proprio come estrema ratio, cioè quindi fa un ragionamento molto articolato su come noi dobbiamo fare sempre a meno, sempre più a meno delle carceri, questo proprio nello spirito di Cesare Beccaria. Io mi sono anche divertito nel mio articolo a fare due cose. Uno, a mostrare che Cesare Beccaria è grandissimo sia per il discorso dei delitti e delle pene, che è un capolavoro assoluto del pensiero italiano. Beccaria è uno dei più noti al mondo, insieme a Machiavelli è il più noto al mondo tra i pensatori italiani. Mi sono divertito a mostrare che però era anche un grande economista, questo sulla scorta di un libro molto bello che è uscito adesso di Carlo Scognamiglio, che si chiama L'arte della ricchezza, che mostra addirittura come abbia anticipato certe idee fondamentali di Adam Smith, cioè l'idea che è il lavoro soprattutto il motore principale di una maggiore produttività e quindi della ricchezza delle nazioni. L'altro divertimento che io ho trovato è stato quello di citare Beccaria proprio per quello che dice dei fogli letterari, cioè insomma in fondo un po' quello che potrebbe dire anche oggi del nostro domenicale. E lui dice questo, che il vero fine di uno scrittore di fogli deve essere di rendere rispettabile la virtù, di farla amabile, di ispirare quel patetico entusiasmo per cui pare che gli uomini dimenticano per un momento se stessi per la loro felicità. E quindi abbiamo quindi il Beccaria che parla della felicità pubblica e privata, e aggiungeva: ma questo scopo deve essere piuttosto nascosto che palese, coperto da fine apparente di dilettare, di divertire, come un amico che conversi con voi, non come un maestro che sentenzi. Ecco, questa è un po' la filosofia generale, se vogliamo, proprio del domenicale. Insomma, lui parlava di queste cose in una specie di editoriale del caffè, che insomma facciamo nostro, e lo facciamo nostro proprio magari indicando alcuni articoli che ci sono nel domenicale e che sono piuttosto divertenti e che mostrano come la cultura alta e bassa a volte proprio coincidono, no? Facciamo un esempio, la Caterina Soffici da Londra ci fa una recensione di un libro di Nick Hornby, che tutti ricorderanno per Alta Fedeltà, perlomeno certo, per il film Alta Fedeltà e per tanti altri suoi libri, si intitola Funny Girl ed è un libro che da 5 anni non scriveva romanzi Nick Hornby, e Caterina Soffici fa vedere come, raccontandoci l'Inghilterra, soprattutto l'Inghilterra televisiva dal 64 al 2014, Nick Hornby fa veramente un grandissimo esercizio culturale, popolare, ma nello stesso tempo di grande raffinatezza. Poi abbiamo una stroncatura, poiché anche questo in spirito illuministico ogni tanto ci vuole, Armando. Ogni tanto ci vuole, perché bisogna anche appunto, e qui c'è la nostra Zerlina che parla di Daria Biliardi e abbiamo intitolato 50 sfumature di tiepitudine, perché poi il tono di questo articolo di Zerlina molto divertente è appunto quello del fatto che qui non è mai né caldo né freddo né altro, insomma è tutto un tiepido che anche se il romanzo è complicatissimo, è pieno di argomenti, è una spy story che però diventa anche altre cose, però alla fine il tratto generale è che tutto è che non c'è mai niente di deciso, è tutto molto tiepido appunto, quindi 50 sfumature di tiepidudine per il divertimento dei nostri lettori. E poi sempre allo scopo di fare qualche risata, anche qualche volta anche più amara, visto l'autore che è David Grossman, Applausi a scena vuota è proprio la storia di un comico ed è un libro, pare molto bello, lo recensisce Giulio Busi appunto per la Domenica. Un altro articolo, questa volta ecco, usciamo dal divertimento, però è un articolo scritto con grande grazia, un grande rispetto, nonostante sia molto deciso nel suo punto di vista, che io consiglio veramente di leggere, è Vincenzo Barone. Ecco, qui c'è un altro tratto dell'illuminismo che mi piace riportare nelle pagine della Domenica, cioè è quello del andare a scandagliare alcuni pregiudizi, alcuni luoghi comuni. Qui si parla del rapporto scienza-fede e Vincenzo Barone si chiede: ma è davvero un dialogo quello che in genere si fa quando si fanno delle inchieste come quella di cui lui parla, in cui si mostra che gli italiani in fondo tendono a coniugare, no, il fatto che c'è, cioè, l'intervento divino con le spiegazioni scientifiche. Chissà se è una forma suprema di intelligenza o di così di ipocrisia, chi lo sa? Non è tanto ipocrisia, ma però lui puntualizza molto bene, secondo me, perché dice che in buona sostanza, sì, laddove vengono dei dati abbastanza eclatanti su questa conciliazione, in realtà il vero motivo è che si conosce molto poco sia la cultura religiosa sia soprattutto quella scientifica, e quindi poi è troppo facile fare una conciliazione quando regna l'ignoranza generale, insomma. Noi sappiamo che ecco, quindi ecco. Mi sa che abbiamo finito il tempo, Armando, ci hai dato così una bella spolverata con tanti argomenti, una bella impressione. Tutto il resto lo trovate sul Domenicale oggi in edicola, quindi noi invece, Armando, ci ritroviamo domenica prossima. È stato un piacere ritrovarti e risentirti, a presto. Buona intanto domenica. Buona giornata e buona domenica, ciao Armando. Ciao, a presto, grazie. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati, 9:16 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, i nostri contatti, ricordiamoli, vai, se volete così chiacchierare con noi, tra poco metteremo come sempre le buone notizie al vaglio di ascoltatore, l'800 24 00 24, ci trovate anche su tutti i social network, sì, di questo mondo. Su Facebook. Su Facebook, come si può fare? _ Radio 24. Esatto, su Twitter @sipofare24. Oppure sui nostri account personali, il mio è @Carlo Gabardini e il mio è Ale Maurizi. Allora, tra poco parleremo anche di un argomento un po' difficile, perché parleremo di che cosa? Insomma, il ministro Galletti ha detto, dopo sull'onda dell'emergenza ambientale, dopo le alluvioni, eccetera, eccetera, mai più condoni, è un omicidio colposo, basta con le costruzioni abusive. C'è una legge nazionale in attesa, in realtà fu il ministro del governo Monti, il ministro Catania dell'agricoltura, a presentare un disegno di legge contro la cementificazione, non è ancora stato approvato, le regioni si muovono in ordine sparso. E ne parliamo pure qui, ne col ministro parlato, Catania. Tra l'altro, sì, abbiamo parlato spesso di questo argomento. E la Lombardia ha approvato una legge contro la cementificazione che però divide un po' i commentatori, l'opposizione è contraria, dice che in realtà si potrà costruire lo stesso, e anche le associazioni ambientaliste, il WWF ha dato un credito a questa legge, la Lega Ambiente no, dice che invece tra le pieghe c'è la possibilità di costruire ancora, di cementificare ancora, e siccome insomma sappiamo che ci sono case vuote, non vendute, nuove, capannoni vuoti, si costruisce ancora a fare, cosa aspettiamo a capire che in Italia bisogna, insomma, la regola deve essere che non si costruisce più e si recupera tutto quello che c'è, poi se proprio c'è bisogno, in caso fare ospedali o cose particolari, allora sì, e vedremo, cerchiamo di capire. Sono, questo mi sembra un tema fondamentale, invece è un tema molto più minuscolo, che è, tu metti i guanti quando vieni in motorino, cioè qual è la data in cui bisogna iniziare a mettere i guanti e in quale scattata, regione soprattutto? È già scattata assolutamente, poi te lo dice uno che ha appena preso la polmonite, quindi io ormai tu non il fai consiglio testo. Che do a tutti è copritevi, mettetevi sciarpe, cappelli, guanti. Non fai come testo, diceva, tu diciamo bevi tachipirina invece del caffè, bravo. Non vale però. Come diceva Edoardo De Filippo quando qualche giorno fa hanno fatto i 30 anni della morte di Edoardo al Senato, il figlio gli hanno chiesto a Luca De Filippo, cioè, qual è l'insegnamento morale, filosofico che ti ha lasciato tuo padre? Lui ha detto, lui mi diceva sempre, quando esci mettiti il cappello che fa freddo, e questa cosa me la sono segnata. Cioè tutti pensavamo che il grande insegnamento di Edoardo fosse gli esami non finiscono mai, esatto. Ovviamente invece mettiti il cappello che metti fa freddo, il cappello che fa parole freddo sante. Vedi che è molto più simile, diciamo, ai consigli che mi dà mia mamma, cioè mai uscire senza la maglia della salute. Ma la vera saggezza è quella lì, esatto. Però sui guanti, si scappa. Sui guanti ho ancora dei dubbi, perché cioè, tu stamattina sapere, sei venuto in motorino senza guanti? Stamattina sono venuto senza guanti, ma per la prima volta li ho messi nella giacca, però sì, ho detto no, vabbè, si resiste. No, e allora mi chiedevo, in quali regioni già si mettono i guanti e in quali regioni non si mettono i guanti? In Lombardia sicuramente, in Sicilia credo che non se li metteranno mai, hanno 20 gradi tutto l'anno. Tutta la Lombardia, no, secondo me la Lombardia del Sud, ci sono le palme, c'è il sole, si nel sta paese, benissimo, è solo ma qua che abbiamo così della nebbia. Avrei qualche dubbio. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo anche per i guanti. Chiamateci anche per sapere se nella vostra regione usate i guanti o non usate i guanti in motoretta. Soprattutto per questo. Poi se avete tempo potete rispondere anche a cercare di indovinare il personaggio. In primis il personaggio, perché anche oggi ci siamo, si vengono i biglietti per la mostra di Chagall e anche il prestigioso catalogo. Il nostro personaggio della settimana, cominciamo con il primo indizio, è questo. È bellissimo. Si Suspense può dire così. Ha la squadra dalla sua parte. Eccolo qua. Sbizzaritevi. 800 24 00 24. Adesso facciamo, cominciamo. O vuoi che dica anch'io una volta 800 24 00 24? L'hai detto, via. Subappalte, corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano. Ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Come sempre, attualissimo, modernissimo, Rino Gaetano con questa Fabbricando Case. Oppure diciamo che il nostro problema è antichissimo, si può anche dire. Ormai sono tanti anni che insomma il ritmo con cui il suolo viene antropizzato, cementificato, ditela come volete, con infrastrutture, con case e con capannoni industriali, con tutto quello che volete, in Italia è leggermente più alto, tra l'altro, che nella media europea. L'ho ricordato poco fa, insomma, tutti i ministri dell'ambiente, tutti i responsabili della protezione civile di queste situazioni, quando ci sono le alluvioni, dicono mai più condoni, mai più cementificazione, stiamo attenti, eccetera, eccetera. Ci sono molte ragioni per tenere sotto controllo la cementificazione, se non altro perché si tolgono terreni all'agricoltura, che è uno dei pochi settori che funziona, che tira, con cifre anche, con crescita anche a doppia cifra, ecco. Allora, in attesa di una legge nazionale che non c'è, le regioni si muovono in ordine sparso. Abbiamo detto, la Lombardia ha approvato una legge, una buona notizia, perché ci si occupa di questa questione. Associazioni ambientaliste, che naturalmente non prendiamo per oro colato, ma che danno il loro giudizio, diciamo anche... ci fidiamo un ci po', fidiamo diciamo un po', ci affidiamo, un po' divise su questa legge. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Allora, noi abbiamo convocato intanto l'assessore al territorio e urbanistica e difesa del suolo della Regione Lombardia, la ringraziamo per essere con noi di domenica mattina, Viviana Beccalossi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E facciamo fare gli straordinari anche di domenica. Ma innanzitutto ci tengo a dire che sono appena rientrata dalla passeggiata col mio cane e ho messo i guanti, perché qui fa freddo. Ecco. Ah, vedi, questa è una notizia. Dov'è che si trova esattamente? Io abito a Brescia. Ah, perfetto, quindi Brescia, guanti sì. Come la colloquiamo Brescia? Lombardia del centrale, Lombardia del nord, come la collochiamo? Centrale, in centro Lombardia. Comunque te l'ho detto, i guanti, vedi, Beccalossi è d'accordo con perfetto, me. Perfetto, Brescia sì. E segniamo. E poi diamo il buongiorno anche a Damiano Di Simine, presidente di Lega Ambiente Lombardia, buongiorno. Buongiorno a voi. Ben ritrovato, ci siamo già sentiti tante volte per altre questioni. Allora, io non entro nel merito della legge, perché devo dire che è difficile, è una legge naturalmente che presenta degli aspetti molto tecnici. Sono io lo stupido dei due, sono io quello che non ha capito la legge. Oggi siamo in due. Oggi siamo in due, va bene, perfetto. Facciamo così, io e Carlo ci mettiamo dalla parte del cittadino, vogliamo capire. Se riuscite a spiegarci, Viviana Beccalossi, che ha sostenuto questa legge, anche se poi è cambiata nel tempo, prima veniva descritta come una legge più rigorosa, poi come una legge meno rigorosa, invece di simile dal suo punto di vista, perché non è abbastanza rigorosa, se riuscite a spiegarcelo. Assessore, io le do la parola proprio per così, provi in due minuti a spiegare a un bambino che cosa prevede questa legge. Allora, innanzitutto grazie a voi per questa possibilità che mi date per spiegare questa legge, che è stata approvata non in fase di emergenza, quindi quest'estate, ma già a febbraio di quest'anno dalla Giunta Maroni su mia proposta. La legge che cosa dice? Dice che dalla sua approvazione in poi nessun campo di grano o nessun'area verde potrà essere trasformata attraverso una variante dei piani regolatori, ovvero sia dei comuni, in zona cementificata, cioè non si potrà più costruire su questo tipo di aree. È per noi un traguardo importante, siamo la prima regione in Italia e unica ad averlo fatto, c'è chi dice che l'ha fatto anche la Toscana, ma in realtà sì, ha cambiato la sua legge urbanistica e inserito un paio di articoli. Come avete detto molto bene voi, il governo, questo, ma anche quelli che lo hanno preceduto, hanno annunciato un provvedimento di questo tipo, ma non è stato fatto. Perché abbiamo fatto una legge di questo tipo, primi e unici ad oggi in Italia? Per due ordini di ragione. La prima, perché noi vogliamo mantenere il nostro primato italiano, che è quello del PIL agricolo. La regione Lombardia è la prima regione agricola italiana ed essendo stata io per tanti anni assessore all'agricoltura, mi è assolutamente chiaro quanto questo comparto sia importante, soprattutto per i nostri giovani che negli ultimi anni, dati Coldiretti, sono tornati a lavorare la campagna. In secondo luogo perché grazie all'emergenza, che purtroppo a volte fa aprire, seppur in ritardo, gli occhi agli amministratori italiani di tutti i livelli, ci si è resi conto che per colpa della cementificazione selvaggia che in tutta Italia negli ultimi tre anni ha caratterizzato i vari provvedimenti, il rischio idrogeologico è aumentato. Quindi noi vogliamo tutelare la nostra agricoltura e nello stesso tempo tutelare i nostri cittadini lombardi da un rischio idrogeologico che in un momento come questo, laddove il clima è cambiato in maniera molto forte, perché piove di più e piove in un arco temporale ristretto tantissimo, noi abbiamo il dovere di intervenire, tutelarli. Di fare qualcosa. Questo è stato l'obiettivo che noi abbiamo voluto raggiungere, senza avere la pretesa di aver fatto la legge più bella del mondo. Perfetto. Ma intanto siamo i primi e unici ad averlo fatto. Se mi consenti, io mi farei un primo punto qua, così diciamo abbiamo già detto due o tre cose. Diamo la parola a Di Simine di Legambiente. Allora, io riassumo brevissimamente, quindi no varianti su aree verdi e campi coltivati da adesso in poi, per due ordini di motivi: per salvaguardare la natura, diciamo, diciamo anche agricola della regione Lombardia e contro il rischio idrogeologico. Damiano Di Simini, Lega Ambiente, so che voi invece esprimete delle perplessità. WWF ha dato un'apertura di credito alla regione Lombardia, cosa che spesso non accade, questo feeling tra associazioni ambientaliste e amministrazioni di centrodestra. A lei di dire che cosa c'è invece che non va in questa legge dal suo punto di vista, se c'è qualcosa che non va. C'è molto che non va, il fatto di non fare varianti rispetto ai dati sul consumo di suolo in Lombardia è abbastanza irrilevante, nel senso che in questo momento i piani urbanistici dei 1500 comuni della Lombardia hanno in pancia già sufficienti espansioni per costruire in Lombardia tre città grandi come Milano. Quindi in realtà la dotazione di suoli trasformabili, che questa legge definisce già urbanizzati, ma non lo sono, sono previsioni urbanistiche che spesso risalgono agli anni 70-80 del secolo scorso e che non sono mai state realizzate, sono già sufficienti a dare un impulso straordinario al consumo di suolo in Lombardia. E ha ragione l'assessore Beccalossi, a cui peraltro riconosciamo il merito di aver presentato a febbraio una proposta di legge davvero buona. Peccato che quella proposta di legge che è uscita adesso dalla Giunta, che porta lo stesso numero, è completamente diversa da quella che è stata presentata a febbraio. Ha ragione. È stata una variante, diciamo, una di quelle varianti che non sono più ammesse. Sì, è stata una variante che però di fatto ha completamente stravolto l'impianto della legge. È uscita una legge molto diversa, non c'era questo periodo di 3 anni, ottimisticamente ben inteso, in cui di fatto si consente si stimola in qualche modo attraverso... Ci spieghi meglio di Simine questo concetto, perché abbiamo capito il discorso che il primo discorso che lei fa, cioè ci sono già dei piani urbanistici che prevedono, senza dover fare varianti, costruzioni pari a 3 volte la città di Milano, e questo è già abbastanza inquietante, e la questione dei 3 anni invece ce la spieghi un po' meglio? Sostanzialmente si dice tra 3 anni la Lombardia avrà un piano territoriale regionale e a cascata i piani territoriali delle province e quindi i piani di governo del territorio dei comuni, quindi piani urbanistici, che avranno recepito delle soglie che in questa legge non ci sono, che vengono rinviate al piano territoriale regionale. Ovviamente per fare tutto questo lavoro occorrono molto più di 3 anni, quindi diciamo diamo per buoni 3 anni, ma ci saranno sicuramente delle proroghe in cui si fisseranno dei limiti allo sviluppo di suolo. Peccato che questa legge, nel dire che il piano territoriale regionale della regione dovrà fissare dei limiti, non attribuisce al piano territoriale il potere di far valere questi limiti a livello comunale. Noi lo seguiremo ovviamente molto. Cioè non solo non ci sono i limiti, lei dice, ma nemmeno la possibilità che una volta stabiliti questi limiti diventino, diciamo, inderogabili. No, perché per come è scritta siamo ancora al fatto che il piano territoriale regionale dà sostanzialmente delle indicazioni e dei criteri, okay. Allora, ma non un'efficacia vincolante e prescrittiva, come si dice in gergo giuridico. Già oggi facciamo, facciamo una cosa di simile, fermiamoci un secondo anche con lei e sentiamo cosa replica l'assessore Beccalossi a queste due prime sue cose. Che dici, Carmelo, la Lucella regia? Facciamo prima la pausa, sì, e poi torniamo con l'assessore Beccalossi, gli chiediamo di commentare per tutta questa questione, cioè dei piani urbanistici che già prevedono la possibilità di costruire ancora, quindi diciamo non c'è un vero stop alla cementificazione. Di costruire a Milano 3, 4, 5, 6 mi sembra di aver capito. Sì, in tutta la regione, cioè pari a 3 città come Milano. E poi la questione di queste soglie che dovrebbero essere previste entro 3 anni, ma che sono ancora tutte da vedere. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, di nuovo in diretta, cari ascoltatori, 800 24 00 24, naturalmente aspettiamo anche i vostri interventi subito dopo per dire la vostra, per commentare. Stiamo parlando della legge regionale in Lombardia contro il consumo di suolo. Assessore Beccalossi, ha sentito quelle che sono, e le conosce già sicuramente, le perplessità, le critiche espresse da Di Simine, del Presidente di Lega Ambiente e Lombardia, che intanto le riconosce di aver affrontato questa questione, però dice nel corso dell'opera la legge si è indebolita per quei motivi che abbiamo appena detto. Cosa risponde? Beh, innanzitutto che noi abbiamo ascoltato come consiglio regionale, quindi là dove sono seduti tutti i gruppi consigliari, abbiamo ascoltato la voce dei 1535 sindaci della Lombardia, che è vero, hanno già inserito nei loro piani regolatori molte aree da urbanizzare. Ci hanno chiesto più tempo per adeguare i loro piani regolatori e noi come Regione Lombardia gli abbiamo risposto che gli diamo al massimo 30 mesi per adeguarli. In più, il PTR di cui parla Damiano De Simine, che per i nostri ascoltatori è di fatto il piano regolatore della Regione Lombardia, non ci dà 3 anni, ma ci dà 1 anno per stabilire quelli che sono i parametri di riferimento per fare i loro piani regolatori. Noi come Regione Lombardia abbiamo addirittura calcolato quello che voi dicevate all'inizio della trasmissione, gli ospedali, le strade, li calcoliamo come aree che consumano suolo e siamo davvero gli unici in Italia. Ci siamo presi la responsabilità di dire che anche le grandi opere dovranno calcolare quel suolo che loro andranno a consumare. Mi piace anche ricordare che purtroppo, lo dico da esponente del centrodestra, molti sindaci in Lombardia sono di centrosinistra, pur tuttavia dichiarano una sensibilità nei confronti dell'ambiente che poi non rispettano. Noi al di là di tutto gli abbiamo dato 30 mesi per adeguarsi, dopodiché è evidente che subentra questa legge che già oggi prevede che nessun'area oggi verde o agricola potrà essere trasformata. Questo per noi è un punto non di arrivo ma di partenza, l'ho detto fin da subito. Sì, mi resta un dubbio, lei dice nessuna area oggi verde o agricola può essere trasformata, ma un'area verde o agricola già inserita in uno di questi piani urbanistici che prevede la trasformazione, invece sì, questo sì potrà avvenire o no? Però vediamo di essere chiari, negli ultimi 10 anni c'è un arretramento fortissimo da parte dei costruttori perché c'è purtroppo una crisi del mercato immobiliare fortissimo. Di conseguenza è vero che molti sindaci hanno previsto che potrebbero urbanizzare. Però lei dice questo zone, non avverrà perché c'è la crisi. È vero che c'è una tale crisi che evidentemente non si potrà fare. E anche quelle aree che oggi sono state previste dai sindaci, peraltro molti di centrosinistra, che ripeto dichiarano sensibilità appoggiati da Lega Ambiente in Regione, ma che tacciono nei vari comuni. Beh, quelle aree o vengono trasformate entro un limite temporale molto ristretto, altrimenti torneranno ad essere verdi. È per questo che mi sembra molto ingeneroso il parere di Damiano, che rispetto e con il quale ho collaborato, e mi fa invece piacere il parere degli agricoltori, che sono coloro che più subirebbero questo tipo di cambio di destinazione, che invece sono usciti dicendo ha fatto bene Regione Lombardia a fare un provvedimento di questo tipo. Va bene, mi faccia sentire subito di Simine, di Lega Ambiente, per così chiudere a questo punto questo ping pong. Ha sentito di Simine il fatto che dice l'assessore? Sì, ci sono queste previsioni di crescita, di nuove costruzioni, ma essendoci la crisi confidiamo sul fatto che non ci saranno molte nuove costruzioni, non ci sarà molta cementificazione. Poi anche sul resto. Che dice? Allora, intendiamoci, io penso che il consumo di suolo sia una pratica che va fermata perché è nocivo sul piano ambientale, ma è nocivo anche sul piano dei fondamentali economico e sociali. Una legge che, se vuole fermare il consumo di suolo, fa 2 cose, tutte insieme o alternativamente: o fissa subito delle soglie, e io non mi piace tantissimo questo meccanismo, o stabilisce subito dei meccanismi di incentivo e di disincentivo. Perché per fermare il consumo di suolo il modo è ben noto, bisogna rendere vantaggioso dal punto di vista dell'operatore economico l'investimento sulle aree già urbanizzate, cosa che oggi non è. Oggi è un operatore economico che ha soldi da investire, ammesso che ci sia in questo contesto di crisi, e che non sia un operatore, diciamo, di quelli che beneficiano di soldi di provenienza grigia, oggi non ha convenienza a investire sull'urbano perché il suolo libero viene via a poco. Questa legge dà un segnale all'economia delle costruzioni, si dice sostanzialmente, attenzione, voi avete tutto sul fatto di avere diritti edificatori. Abbiamo un problema con la linea di Simine, sentiamo che va e viene, non so se si è spostato, sì. No, perché ci sono troppi palazzi intorno, è la cementificazione. Io sono a Milano. No, è una battuta. Questa legge dice, dà al mercato un'indicazione chiara, dice per 3 anni voi avete dei diritti edificatori, concretizzateli se ci riuscite. Poi dopo si vedrà. Ora è chiaro che quello che succede è che chi ha dei diritti edificatori, pur di non perderli, cercherà di fare tutto quello che è in suo potere, magari anche indebitandosi più del dovuto pur di mettere un paletto su un diritto edificatorio. È che il messaggio esattamente opposto a quello che bisogna dare all'economia delle costruzioni in questo momento. In un momento in cui c'è un'attenzione ai temi della rigenerazione urbana, dell'efficienza energetica negli edifici, in cui si dischiude una enorme potenzialità di intervento edilizio all'interno, sì, della città, oggi il segnale che bisogna dare è un altro. Non voi vi aspettavate un segnale più forte, anziché appunto queste. Ci aspettavamo degli strumenti che rendessero più praticabile, sì, la trasformazione urbana e meno pratiche, meno accessibile invece l'urbanizzazione di nuovi territori, perché diversamente le poche risorse che possono essere messe in gioco in questo momento andranno tutti nel cercare di fotografare i diritti edificatori. Io adesso devo dire che ho capito molto meglio la situazione e poi voglio sentire anche gli ascoltatori dell'800 24 00 24 se l'hanno capita e sì, insomma, da in qualche modo che cosa ne pensano. Carlo, vuoi fare una domanda? Sì, volevo fare una domanda, forse una domanda stupida, assessore, mi scusi, volevo sapere, ma secondo lei la legge che ha proposto a febbraio e della quale la stessa Lega Ambiente dice che era molto buona, è meglio o peggio della legge che state andando ad approvare adesso? Era sicuramente una legge molto più coraggiosa perché impediva fin da subito questo, ma è anche vero che sarebbe stata a rischio di essere impugnata da quei cittadini che non tutti i cittadini vogliono costruire palazzi, vediamo di essere chiari, c'è anche chi vuole costruire la casa per il proprio figlio piuttosto che chi vuole allargare un po' la propria di casa. E poi guardi, voglio rispondere a Dessimine perché credo che un po' di onestà intellettuale ogni tanto serva. Noi abbiamo aumentato i costi di costruzione dal 20 al 40%. Voi vi rendete conto che in un momento di crisi come questo aumentare i costi di costruzione, sì, è di tutta evidenza che va a disincentivare quel provvedimento che lui pensa, ovvero sia va che bene, però non mi riapre il dibattito perché io invece volevo chiuderlo, anzi vorrei ringraziarvi tutti e due, l'assessore Viviana Beccalossi e io presidente di Lega Ambiente di Simine. Prego, stava dicendo. E le altre regioni si adeguino e che soprattutto Lega Ambiente faccia da pungolo nelle altre 19 regioni perché si parte non si preoccupi una legge come credo che lo faranno perché l'ambiente gli sta a cuore naturalmente. Grazie assessore, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Damiano, grazie di Simine, non le concedo nuovamente la replica dove ho detto all'assessore perché andiamo troppo lunghi, però ripeto le posizioni sono chiare, le ho capite anch'io, abbiamo capito, grazie anche a di Simine, buona domenica, grazie a voi, arrivederci. Ciao, arrivederci. 800 24 00 24. Allora adesso poi commentiamo, chiusiamo, facciamo vedere che abbiamo capito, riprendiamo i concetti. Adesso però diamo la parola agli ascoltatori. Bruno da, sì, Treviso. Ciao. Ciao, buongiorno. Volevo dare la soluzione. Sì. E anche un consiglio per quanto riguarda l'uso del territorio. Bravo. Iniziamo dal consiglio. Bello chiaro e preciso. Allora, per il quiz dico Mancini. Mancini. Partito con la risposta. Mancini perché? Perché è diventato il nuovo allenatore dell'Inter, quindi la squadra è dalla sua parte. Certo, è vero, la notizia c'è tutta, la squadra dalla sua parte. Ma non è direi che è caduto nel nostro trappolone. Non era Mancini, per esempio. Era perfetto, infatti, come indizio, però l'indizio ci porterà, poi vedrete, da un'altra parte. Sì, però dire, siamo curiosi di questo, sì, consiglio da dare sull'urbanizzazione. Ma chi lo vuol dare? All'assessore? No, in generale. In generale, poi tutti possono capire cosa vuol dire mettere alla fine di tutto il dio denaro e non guardare l'ambiente o quelle altre priorità che si vogliono perseguire. Venezia è rimasta tale quale per 1000 anni. Mm-hmm. I veneziani, il magistrato alle acque, ha portato fuori dalla laguna tutti i fiumi che scaricavano sassi e detriti in laguna perché altrimenti la laguna di Venezia diventava terraferma. Dove vuole arrivare? Voglio arrivare che se i veneziani, sì, no, sono riusciti a mantenere la loro città così com'è e come la vediamo adesso, cosa hanno fatto i politici e i soldi di questi anni? Hanno portato in laguna Porto Marghera, la chimica. Quindi? E quindi... Faccia una conclusione a questo, perché per ora siamo appesi. La conclusione è questa: se invece di guardare ai soldi, soldi, al dio denaro, ad aver turisti con i bastimenti. Cosa dovremmo fare? Veloce, però chiudiamo perché di San Marco Ecco, se invece guardassero a quello che bisogna per non assassinare il territorio, per va bene Bruno, va bene Bruno, il suo appello accorato è guardare meno agli interessi e più insomma al territorio. In fondo non ha tutti i torti, perché la questione delle costruzioni, cementificazioni, si alimenta fondamentalmente sulla base degli oneri di urbanizzazione con cui i comuni incassano dai costruttori e tengono in piedi le esangui casse dei comuni. Però questa è una cosa che deve essere interrotta sicuramente. Sì, poi come esempio diciamo Venezia, come esempio dei problemi idrogeologici, l'ascoltatore è andato un po' per la sua strada. Rischiamo di parlare di Mose. Fanno segno che c'è il traffico, allora facciamo. C'è molto traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, devo dire che ci mandano degli sms sì. dove giustamente precisano, visto che ho chiesto dove ci si deve mettere i guanti, in quali regioni fa così freddo che ormai bisogna mettere i guanti in motoretta, giustamente mi fanno notare che in moto i guanti vanno messi sempre, non è una questione di clima, no. ma una questione di sicurezza in moto. Ah, io volevo tranquillizzare tutti dicendo che ho una motoretta che è immatricolata nel 99, fa i 25 all'ora a fatica, cioè se mi spinge Alessio fai 25 all'ora, quando non mi spinge faccio 17 all'ora. Ecco, quindi facciamo una distinzione tra i motociclisti, i professionisti che hanno le guanti sempre, e la gente normale con i motorini. Ci tenevo a precisarlo perché è vero, in moto c'è quel problema lì. Io diciamo anche se cado con la motoretta a 17 all'ora, le mie mani non succede nulla. Indizio, lo ricordo, ha la squadra dalla sua parte. Il nostro personaggio della settimana ha la squadra dalla sua parte. Volevi dare il secondo indizio? No, aspettiamo un attimino, vediamo se c'è ancora qualche telefonata. Intanto sentiamo Franco dalla provincia di Cuneo. Vorrei parlare di una cosa di cui non parla quasi nessuno. Io sono un tecnico sperimentale che ha fatto per un po' di tempo misure anche sull'acqua eccetera, e sono stato abituato fin da piccolo a combattere gli sprechi. Allora forse la gente non si rende conto che in un cortile di 10 metri per 10, quando piove, ogni millimetro d'acqua sono 100 litri d'acqua. Sì. Ma perché ci dice questo? Scusi? Perché qua si sta parlando di agricoltura, di consumo di suolo, eccetera. Okay, okay. Ma l'agricoltura dipende anche. Ha bisogno dall'acqua. Ma non solo, negli impianti della casa, buona parte del consumo di acqua è dato, per esempio, per lavarsi, dallo sciacquone, dalla lavatrice, eccetera, eccetera. Ora, per colpa di un ambientalismo, secondo me, un pochino miope, stanno smantellando tutti i serbatoi d'acqua che c'erano. Non se ne costruiscono di nuovi perché dicono che sta male, rovinano il paesaggio, ma perché questo autolesionismo? Cosa c'è di male a conservare l'acqua? Ci spieghi un attimo una cosa, si stanno smantellando i serbatoi, dove? Che serbatoi? Allora, voi andate in tante città, c'erano quei serbatoi dell'acqua, magari un po' bruttini, che però era un... Ma ce n'è anche di bellissimi, ne ho in mente anche a Milano, ce n'è uno proprio con tutto colorato, con tutte le piastrelline appiccicate addosso. Ma ce ne vogliono di più a livello locale, cioè non c'è niente di male, sono un campo di secondo lei sono gli ambientalisti che sono contrari? No, alcuni ambientalisti per cui tutto sta male, perciò sta male i pali della luce, per esempio. Magari saranno anche semplicemente persone che hanno il serbatoio di fronte casa e non lo volevano. Non credo sia una questione di ambientalisti, No, io volevo dire un'altra cosa. Sì, è il solito rifiuto di avere le infrastrutture davanti casa, insomma. No, è che l'acqua, siccome è una delle cose più preziose, perché l'acqua sulla terra... No, ma è giustissimo, questo è giustissimo, abbiamo capito. Ora, se in ogni campo... O diciamo in ogni gruppo di campi ci fosse un serbatoio per conservare l'acqua, che altrimenti, visto che giustamente è aumentata come intensità, concentrata in un lasso di tempo molto più piccolo, ho capito, ma se non si raccoglie, ecco. Se si raccogliesse, lei dice si eviterebbe che vada tutta di su, diciamo simultaneamente nei campi facendo alluvioni. Quest'acqua la potremmo tenere di più e rilasciarla piano piano quando c'è bisogno. Certo. Ma non si può mettere un serbatoio sottoterra, mi scusi. Invece che mettere un serbatoio. Sì, ma ci vogliono poi le pompe, perciò ci vogliono energia elettrica. Se invece ecco, ha ragione, giusto. Cioè, voglio dire, se su ogni condominio. Abbiamo capito. Adesso dobbiamo dare spazio anche agli altri ascoltatori. Grazie Franco. Tra l'altro questo conferma una cosa, però, che in questo campo qua, in questo settore, cioè non dire campo, anche proprio nel campo. Se dici campo, ci vuole il serbatoio. Ci vogliono dei lavori, cioè questo è un settore nel quale si potrebbe investire moltissimo e avere dei risultati straordinari. Cioè, investire vuol dire crescita economica, persone che lavorano, cioè persone che vanno a mettere i serbatoi di cui parlava Franco, che sicuramente non è un'idea stupida, no, anzi, molte ragioni. No, no, ma che volevo capire se realmente fosse come quello che avevi chiesto tu, se realmente fossero gli ambientalisti che vogliono togliere i serbatoi o quelli che hanno la villa che non vogliono vedere davanti il serbatoio. Adesso vi raccontiamo una bella storia a proposito di rischio idrogeologico che viene da Calenzano. Vai! We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got married, pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card. Vorremmo ascoltarlo sicuramente più a lungo, questo meraviglioso Bruce Springsteen, ma visto che vogliamo dedicare un po' di spazio al sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Perché su questa questione con cui siamo partiti oggi, cioè ci lasciamo alle spalle una settimana nella quale non se ne parla più perché c'è il sole, ma abbiamo iniziato la settimana continuando giustamente a parlare del rischio alluvioni, di quello che è successo, mai più quello che è successo in passato, mai più alluvioni, mai più qua, mai più là. Poi non si fa spesso quasi un tubo. C'è un comune come quello di Calenzano che di cose ne ha realizzate, tanto da meritarsi la palma d'oro, diciamo così, del comune più sicuro che ha fatto più lavori, secondo un rapporto presentato Ecosistema Rischio 2013, credo sia questo, da Legambiente e dalla Protezione Civile. Calenzano top tra i comuni per quanto riguarda la sicurezza. Come avete fatto? Cosa avete fatto, sindaco? Abbiamo fatto un po' l'inverso di quello che diceva lei, cioè quando c'è stato il sole si è provato a pianificare delle opere che contenessero nei fiumi quando poi pioveva. E dico questo perché quando si parla di opere di questo tipo si parla di anni di progettazione e di programmi per realizzarle, quindi bisogna avere un po' anche, come dire, la lungimiranza di iniziare un'opera con un sindaco e magari finirla con il sindaco successivo. Non sono quel genere di opere che ti danno un ritorno immediato, quindi bisogna proprio volerle, essere quasi testardi, perché se uno guardasse al tornaconto immediato farebbe magari esatto. Altre come cose costa anche tanti soldi, c'è da mettere insieme lo Stato quando mette i fondi a disposizione, la regione, le province, allora quando abbiamo fatto le opere, anche consorzi di bonifica, altri soggetti che poi hanno contribuito a realizzarle, contribuiscono tutt'oggi a tenere l'efficienza. Ecco, costano tanti soldi, però io dico sempre, potrebbero essere, sono, quando si fanno, una fonte anche di occupazione, di lavoro, cioè si dà da lavorare delle aziende specializzate in questo settore, anziché magari a costruire nuove villette che poi rimangono invendute perché sono davanti all'autostrada, si fanno questi lavori qua. Quanto avete speso voi in percentuale del vostro bilancio? Noi non tanto in percentuale il nostro bilancio, perché è chiaro si parla di più bilanci, sì. Però il complesso della spesa sono più di 8 milioni di euro fra tutto. Comune di Calenzano quanti abitanti fa? 17.000. Quindi parliamo di un grande paese, un cittadino. Una circa metà, sì, per circa la metà. Sì, è un comune che fa parte dell'area metropolitana di Firenze, quindi siamo dentro la città. E il vostro comune, ci comune sono, è montano. Ci sono diversi fiumi tra l'altro. Sì, è un comune montano che però ha la parte abitata nella piana della città di Firenze. Quindi ci sono diversi corsi d'acqua, però voi non avete più avuto alcun problema, diciamo, in questi ultimi anni. I problemi degli ultimi anni sono dovuti più che altro ai piccoli fiumi, quello si chiama reticolo minore, perché purtroppo risentono maggiormente dell'incuria e dell'incolto che c'è nelle zone collinari e montane. Per cui mentre sulla gestione del rischio vero, cioè quello che poi provoca le alluvioni, le grandi alluvioni, sono state realizzate queste casse e c'è tutt'oggi sia un monitoraggio sugli argini, sia una manutenzione costante appunto che il consorzio fa, sui piccoli reticoli a volte succede che proprio il terreno, l'incuria del terreno crei delle situazioni impreviste. Per cui i piccoli problemi li abbiamo avuti anche noi, nessuno è perfetto, però diciamo quantomeno la voglia di realizzare quelle che erano le pianificazioni del piano della solidità di bacino. Ma mi scusi sindaco, le volevo chiedere una cosa, perché mi sembra che il discorso più bello sia il fatto che i lavori con lunga durata non danno consenso elettorale. Come si fa a far capire ai cittadini invece che sono proprio quei lavori lì lungimiranti che sono molto più utili? Solo bisogna saperlo comunicare, poi i cittadini lo capiscano. Ecco, teniamoci anche questa risposta lapidaria, sindaco, perché dobbiamo chiudere, mi dispiace. Grazie comunque al sindaco di Calenzano, Alessio Viaggioli. Grazie mille, e anche risposta dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nel vuoto del letto dolce di una domenica sono cambiamenti, solo se spaventano sono sentimenti. Questi sono i Subsonica con Di Domenica, che è la canzone scelta e proposta dalla nostra ascoltatrice Alessandra Merlini. Vi ricordiamo che potete sempre consigliarci, postarci i vostri Si può fare in musica, che poi noi facciamo ascoltare durante la trasmissione, e come diciamo sempre speriamo di fare un CD. Potete ovviamente farlo attraverso i nostri social o su Facebook Si può fare Radio 24, oppure su Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è Carlo Gabardini e il mio è Ale Maurizi. Così insomma vogliamo rendere più musicale il sabato e la domenica mattina. Allora, 800 24 0024, insomma abbiamo capito un po' meglio questa questione della legge regionale in Lombardia contro il consumo di suolo. L'assessore dice non si potrà più costruire, non ci potranno essere varianti nuove su terreni agricoli, aree verdi e di simile di lega ambiente. Dice già, però ci sono già piani urbanistici che prevedono nei prossimi 3 anni la costruzione dell'equivalente di 3 città come Milano in Lombardia, quindi bisogna intervenire su quello, variante non variante successive ulteriori. Già tutto questo è previsto. Se volevamo dare lo stop al consumo di suolo bisognava essere più coraggiosi. L'assessore Beccalossi ha detto, in effetti, la prima stesura della legge, questo va detto, diciamo, per un, ha avuto l'onestà intellettuale di dire la mia legge di febbraio effettivamente era più coraggiosa. Poi sono avvenute delle cose che effettivamente, diciamo, peggiorative nel frattempo, e comunque insomma scoraggianti. C'è questa legge che, come dire, come vogliamo giudicarla, prevede quantomeno che non si possa non creare ulteriori varianti. E l'assessore Beccalossi dice anche che, vista la crisi che c'è nel settore dell'edilizia, si può immaginare che queste previsioni di costruzioni non saranno realizzate perché c'è la crisi. Di simile però ha detto attenzione, perché siccome è una sorta di moratoria, 3 anni, fate quello che volete, poi si vedrà, è possibile che i costruttori si indebitino pur di farlo. Sì, oppure aggiungo io, solo i ricchi possono costruire e deturpare il paesaggio. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, anche con il personaggio della settimana. Abbiamo detto alla squadra dalla sua parte il primo indizio, tra poco ne daremo altri. Noris dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica. Buongiorno. Io ho fatto un'associazione forse un po' azzardata, sì? Pensando a Stefano Boeri e alla squadra. Perché? La squadra in quanto strumento magari un po' obsoleto di lavoro dell'architetto, perché Stefano Boeri ha vinto questo premio internazionale. Sì, è vero, con il grattacielo, con il bosco verticale a Milano. Sì, esatto. Sì. Ma non è. Bella risposta, però la brava, l'ha detto lei non è. Però c'era non la notizia è. Bella, non c'era è. Anche l'indizio, però non era questo. Grazie Noris, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Valentino da Roma. Pronto? Sì, mi sentite? Benissimo. Allora, guardi, io ho pensato che la squadra si abbina col compasso, che è il segno del grande architetto. Pensavo a Renzo Piano. Ah, lei ha fatto la stessa associazione di idee di Noris, cioè la squadra è quella dell'architetto e l'architetto nel suo caso è Renzo Piano. Qual è la notizia su Renzo Piano però di questa settimana? Che è diventato curatore di una nuova rivista, c'è stato un po' di polemiche per il fatto che fa l'architetto, il senatore, più adesso... Troppe cose su Renzo Piano. Caro Valentino, anche lei ha avuto l'arguzia di fare questa associazione, questa sfumatura sulla squadra, ma la squadra non era quella e quindi non era neanche quello Renzo Piano. Esatto. Va bene, va bene. Grazie comunque, grazie. Diciamo per gli altri, buona giornata, per gli altri ascoltatori diciamo che non esistono solo squadre di architetti, esistono anche altre squadre. Altre squadre, quella è proprio una squadra. Io direi che potremmo anche dare un altro indizio. Diamo il secondo indizio. Sì. Secondo indizio è: fa di tutto per ridurre il debito. E va bene, quindi ha la squadra dalla sua parte e fa di tutto per ridurre il debito. Questo è il nostro personaggio. Si possono vincere due biglietti per la mostra di Chagall, di Chagall. Anche il prestigioso catalogo all'800 24 00 24. Lucrezia dalla provincia di Monza. Buongiorno. Buongiorno. O dovremmo dire Monza e Brianza. Monza e Brianza si chiama la provincia. Si allora chiamava, diciamo, adesso, vabbè, una delle province che è stata abolita, vabbè, per modo speriamo di dire. Ha avuto una vita brevissima, diciamo. È una di quelle che è durata, esatto, meno. Sì, sparirà. Brevissima, brevissima. Prego, Lucrezia. Io volevo dire all'assessore Beccalossi che bisognava avere, forse non è questione di coraggio, ma è, sì, questione di impressioni ricevute da parte dei costruttori, nel senso che quando io stavo in amministrazione fino all'anno scorso, poi sono stata eletta in Parlamento. Comunque la nostra amministrazione... Scusi, in amministrazione dove? A Desio, in provincia di Monza e Brianza. E adesso è stata eletta in Parlamento? Sì, sono in Senato. Ah, lei è una parlamentare? È una senatrice? Sì, sono una parlamentare. Ecco. No, volevo dire che quando ci siamo insediati in amministrazione nel 2011, noi, sì, abbiamo proprio fatto una variante al piano di governo del territorio che prevedeva l'edificazione per oltre l'80% del nostro territorio, e abbiamo trasformato un milione e mezzo di metri quadri da edificabili in agricoli. E quindi, siccome l'assessore Beccalossi diceva che non si è avuto, cioè la sua legge era più coraggiosa, no, la prima proposta, però temevano poi i ricorsi da parte, sì, di tutti coloro che avevano, insomma, il titolo edificatorio, in sostanza. E voi come ve la siete cavata? Siamo un piccolo comunello, abbiamo avuto questo coraggio. Però mi scusi, Lucrezia, non ho capito. Voi avete trasformato con quale strumento, diciamo, legislativo dei terreni che erano edificabili in terreni agricoli? Perché le spiego, noi abbiamo fatto anche dai microfoni si può fare, abbiamo parlato di alcune di queste storie. Però nel caso, diciamo, di adesioni volontarie, siccome tra l'altro si pagano degli oneri più cari sui terreni edificabili, sappiamo che in alcuni comuni, i comuni invogliano proprietari di terreni edificabili a dire: se volete tornare indietro, tornate indietro, pagate meno tasse e così salvaguardiamo il territorio. Voi invece avete fatto una variante, quindi obbligando delle persone che potevano costruire a non poter, certo, più costruire? Esatto, noi abbiamo fatto, appena ci siamo insediati, una variante urbanistica, sì, al piano di governo del territorio, che fra l'altro era stato appena approvato dalla giunta precedente. E quindi abbiamo trasformato subito da edificabili in agricoli 1,5 milioni di metri quadri. Poi siamo partiti con le procedure del piano di governo del territorio che abbiamo approvato, è stato approvato proprio, guardi, 20 giorni fa. A questo punto però le chiedo, con che criteri avete individuato questi territori? Anche per non avere ricorsi da parte di chi pensava di farci la sua casa o che ne so. Altre cose in cui invece voi avete detto no, adesso questi sono terreni agricoli. Quali criteri avete utilizzato? Abbiamo praticamente tutto quello che stava fuori dal perimetro dell'abitato. Sì. Per noi diventava tutto terreno agricolo verde, doveva rimanere così com'era. Ma mi scusi, forse è una considerazione stupida, ma paradossalmente con la legge attuale la variante che voi avete fatto diventa vietata, perché non si possono, esatto, fare varianti, quindi paradossalmente non si può nemmeno tornare indietro. Bravo, è proprio questo, grazie, che non è stato detto, che cristallizza tutto quello che c'è. Quindi anche quelle amministrazioni che vorrebbero fare come quello che abbiamo fatto non possono farlo. E quindi è questa, secondo me, la cosa che va detta. È che mi sembra un po' terribile, nel senso che da un lato ci viene detto sono, sì, già messi in piano tre città come Milano da costruire dentro la Lombardia, noi fissiamo che addirittura non si possono fare varianti, quindi meno di tre città come Milano. Guardi, non si... Lucrezia, facciamo, esatto, una cosa, ci prendiamo l'impegno di risentire l'assessore Beccalossi e di fare questa domanda, perché a questo punto vogliamo sapere come va a finire. Grazie intanto, grazie per averci chiamato. Buona giornata e buona domenica. Buona domenica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Perché non mi capisci di me? artisti con questa celebre canzone, non so quanti si ricordano, sanno che si chiama Al Cinema questa canzone, perché parliamo di un cinema particolare, un cinema a Roma, il Cinema America. Sì, signori. Cinema che era stato occupato. Occupato perché poi è stato sgomberato. Volevano chiuderlo. Sì. È stato occupato, è stato sgomberato. Adesso, notizia di qualche giorno fa, insomma, ci sono una serie di persone nel mondo del cinema, attori, produttori, registi, che si rimboccano le maniche e dicono: ferma un attimo, interveniamo noi, ce lo prendiamo noi il Cinema America, perché vogliamo che continui a vivere. In che quartiere siamo di Roma? Te lo ricordi, tu non conosci Roma. Beh, sei un milanese proprio. La conosco, cioè, ma c'è anche stato, ma non sai ma che quartiere. Spessissimo, lo, ci vado spessissimo. Lo per chiediamo lavoro a Nicola Giuliano, produttore, naturalmente cinematografico, presidente di Indigo Film. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Per essere con noi di domenica mattina. In grazie che quartiere siamo al Cinema America? Noi milanesi. Trastevere. Vabbè, io perché non ci sono mai stato. Trastevere è il quartiere. Guardi, come fai a non sapere che il Cinema America è Trastevere? Che è Trastevere? Ma perché io è non so il quartiere. Non so i nomi dei quartieri come tutti. Vabbè. I milanesi. Che i nomi dei quartieri servono semplicemente da dire ai tassisti, perché così capiscono che non sei un milanese, perché sennò ti fanno pagare il doppio. Ecco, questo è anche vero. Allora, quali sono le ultime notizie, Nicola, su per quanto riguarda il Cinema America? Le ultime notizie sono che sembra che la proprietà di questo cinema sia disposta a intavolare una trattativa e ci sarebbe una volontà fra appunto persone che lavorano nel mondo del cinema e abitanti del quartiere di cercare di fare una cordata per provare a rivelare il cinema, per far sì che questa esperienza continui. Diciamo, gli investimenti da fare in questo caso sarebbero ingenti, cioè ha bisogno di essere ristrutturato. Quanto costa poi tenere un cinema? Cioè, pensate, non so, a una cooperativa. Beh, che cosa? No, noi, l'idea è quella di far sì che i ragazzi continuino a gestire il cinema, perché il senso di questo nostro tentativo, poi vediamo se la cosa sarà possibile o meno, perché comunque c'è bisogno del fatto che la proprietà abbia poi intenzione. Approvi, certo. Di vendere. Cioè, l'intenzione appunto non è assolutamente speculativa da parte di tutti quelli che si stanno provando a mettersi insieme. Nel senso, cos'è che ha colpito di questa gestione di questi ragazzi del cinema occupato? Ha colpito il fatto che per la prima volta loro sono riusciti, cosa in cui la nostra generazione ha fallito, diciamo, e quindi siamo ammirati della loro forza, a portare le persone al cinema. I ragazzi sì. Giovani al cinema e le hanno riavvicinati al cinema anche classico, nel senso, vedere 1000 ragazzi che sono lì a vedere Uomini contro, Manine sulla città di Francesco Rosi, o l'altra sera 800 ragazzi a vedere Gioventù bruciata, giovani, tutti sotto i 18 anni, è un trionfo e anche una piccola flebile fiammera di speranza per chi fa questo lavoro. Ecco, ma perché infatti un tempo, diciamo, senza andare troppo in là negli anni, c'erano più cinema che offrivano rassegne di questo tipo, adesso queste sale sono quasi sparite, cioè per gli amanti del cinema che vogliono vedersi, che ne so, tutto Truffaut, tutto anche registi più moderni, Spielberg piuttosto che cioè te li puoi guardare online, te li puoi scaricare, te li puoi comprare, ma non puoi andare a condividere questa cosa in una rassegna. Perché questa cosa sta sparendo? Sta sparendo perché le persone poi non ci vanno, in realtà. Perché c'è online. Sì, no, in realtà la cosa che mi sembra accaduta negli ultimi anni è che proprio il momento di condivisione collettiva di un film nella sala cinematografica è un momento che non è più al centro della non è più attraente come sociale. Prima, non è più un momento veramente di vita sociale, sì. Di mondanità, cioè si preferisce fruirlo ognuno a casa sua. Si preferisce il ristorante, vogliamo dirlo? Sì, ah, sì, certo. Infatti tutto quello che è cibo, trasmissioni di cibo, sì, vanno benissimo, quello va tutta la grande, il resto sta crollando. Chiudono i cinema e aprono i ristoranti, sì. Effettivamente. A proposito di questo, la proprietà, diciamo, tentenna, perché voi sapete che cosa ha in mente? Lo chiedo perché non avendo... Sì, il cinema è stato l'immobile è stato acquistato 10 o 12 anni fa e penso ci fosse un fine speculativo, cioè nel senso farne un altro uso, appartamento residenziale, sì. Però appunto la cosa che è accaduta è che dopo lo sgombero è stato posto un vincolo di destinazione d'uso sul bene, cioè nel senso deve restare un cinema. E quindi la proprietà sarà anche meno interessata a questo punto, se non può farci appartamenti, certo. Ve lo vende volentieri, possiamo dirla così? o lo vende volentieri oppure a meno. Lo fanno loro. Certo, se lo tiene, certo, il cinema lo fanno. Deve restare un cinema. Come giustamente però dice lei, i ragazzi riescono a far venire gente al cinema, probabilmente se lo tengono loro il cinema ce l'hanno vuoto. Sì, non lo so, però questa è la cosa bella dell'esperienza di questi ragazzi, che lo hanno rivitalizzato, lo hanno reso un'esperienza diversa e attraente per quelli della loro età. E che questa cosa, tra l'altro, la cosa molto bella, è che è stata vissuta da tutti gli abitanti del quartiere con grandissimo entusiasmo. Immagino. Nel senso che i ragazzi sono stati visti come portatori di vitalità, cultura, riqualificazione. Si crea anche questo paradosso per cui le speculazioni, chi vuol fare della grana con degli immobili, ci vuol fare dei belli appartamenti, li vuole vendere, eccetera. Però poi in questi quartieri dove ci sono strutture come cinema, teatri, ristoranti o comunque servizi, sono quartieri dove poi le case valgono di più. Per cui c'è il paradosso che si vogliono i servizi, ma nessuno li vuole gestire perché non rende tanto quanto invece fare altre cose. Però io vorrei chiedere questo: questa esperienza, per chi l'ha vissuta da lì dentro, come si può raccontare, più come un'esperienza di resistenza dall'alto valore simbolico, oppure proprio anche come un'esperienza di vita concreta che può essere ad esempio in altri posti, in altre città, e essere oltre la resistenza del singolo cinema America, ma qualcosa di più? Sì, appunto, mi sembra questo la cosa molto interessante, cioè il tentativo, in modo che sembra quasi di un'altra epoca, no? Siamo più vicino a quello degli anni 70 che a quello di oggi, un tentativo appunto di unirsi per trasformare un bene in qualcosa che sia davvero collettivo. Cioè, questa è l'obiettivo. E chiaramente con tutti i cinema chiusi nelle sale urbane di tutte le città d'Italia, mi sembra un segnale che potrebbe essere raccolto altrove. Onestamente mi sembra un passo avanti dagli anni 70, nel senso che la cosa molto bella è la commistione tra un'azione di ragazzi che decidono di occupare un cinema, quindi ricordiamo quello che di solito tutti dicono, oddio, hanno occupato, e invece dei privati che dicono, scusate, ma forse questi sono degli operatori culturali migliori di molti nostri politici, quindi noi investiamo su di loro, cioè noi privati mettiamo dei soldi per fare anche dei soldi, o comunque per fare una cosa utile, dandoli a degli occupanti, quindi è oltre gli anni 70, o sbaglio? Sì, direi sì. Io parlavo dello spirito, certo, con cui certo. Loro si sono messi insieme. Noi, appunto, non c'è nessun filo speculativo, dovremmo fare. No, è chiaro. Lo stiamo facendo in 50-60 elementi, quindi non ci potrebbe mai essere un accordo. No, ma se anche ci fosse, la cosa buona è che se anche ci fosse, non ci sarebbe niente di male se anche ci fosse, diciamo, un rientro. Poi dopo uno decide di investirli aprendo un secondo cinema bellissimo, non è magari, che per forza magari, debba. Sì. Esatto, sì, insomma, questo poi lo deciderete voi. La nostra finalità è lasciare che lo gestiscano i ragazzi. Certo, questo mi sembra straordinario. Lo fanno meglio di noi. A questo punto l'ultima cosa che voglio chiederti è questa: che percentuale di riuscita, se possibile, ti immagini? Cioè da 0 a 100, come la sensazione qual è? Io adesso sarei tra il 30 e il 50, nel senso che stiamo facendo un po' i conti. Prudenti. Stiamo facendo, sì, nel senso che appunto poi la proprietà è un valore costituzionalmente riconosciuto, certo. Per cui se loro dicono noi non lo vendiamo, è giusto. Poco da fare. Però già il fatto, mi sembra il dato positivo, è che loro abbiano detto parliamone. Certo. Ecco, questo già mi sembra un fatto. Dovete incontrarvi su una quantità di denaro, suppongo, che l'unico scoglio in realtà sia quello, perché se voi gli date 10 milioni loro ve lo danno subito, voi 10 milioni non ce li avete, no, e quindi dite noi ve ne diamo due, se loro si accontentano di due, perfetto. Se volete vi mando Gabardini da fare da mediatore, perché mi sembra ha già impostato la trattativa. Ma io voglio diventare socio. Se dovesse andare avanti e si dovesse poi lanciare appunto l'opzione di acquisto, se magari ci date una mano col crowdfunding. Certo, ma io ci metto i soldi. Abbiamo una rubrica sul crowdfunding che fra l'altro debutta subito dopo questo intervento con Federico Taddia, quindi siamo proprio in linea. Grazie per ora, grazie, e bocca al lupo con Cinema America, Nicola Giuliano, presidente di Indigo Film. Grazie. Per essere stato con noi, tra l'altro, in domenica mattina, lo dico anche a lui, perché in effetti, insomma, domenica mattina magari dorme, va al giro, va al Cinema America, invece sta qua con noi a chiacchierare. Ascoltatori, ne facciamo un paio prima di chiudere il blocco. Sì, certo. Gesuino, dalla provincia di Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, il personaggio per me potrebbe essere Renzi. Perché? Ma perché sta, il Presidente del Consiglio sta facendo in modo di fare il resto, ma anche ridurre il deficit che abbiamo in Italia. Ma la squadra ti sembra dalla sua parte? Sì, la squadra, naturalmente c'è la squadra, essendo Presidente del Consiglio c'è, c'è la squadra. Va bene. Bravo, bravo, però, Gesuino, però non era lui. Non è lui. Okay. Ci stava tutto, ma non era lui. Grazie per averci provato. Grazie mille. Riccardo da Milano. Riccardo? Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo fare una considerazione sul cinema e sui film di quartiere che mancano. Sì, sì. Venerdì andai a vedere Torneranno i fiori di Olmi. A Milano solo tre film, di cui uno molto decentrato, proiettava questo film. Se c'era il cosiddetto film di quartiere o un film recuperato, senz'altro molte più persone potevano andare a vederlo anche in uno stesso quartiere, pur essendo un film particolare. Certo. Quindi questa riflessione. La sala era piena? La sala era piena, però era un cinema d'essai con 50 posti per la proiezione. Ma a volte vanno bene anche 50 posti, perché no? Certo. Soprattutto se uno manda pellicole che hanno un costo minore, perché sono film vecchi, dovrebbero costare meno, credo, per chi li prende, allora dovrebbe avere anche un senso economicamente. Sì, certo. Comunque. Questo era un film recente, diciamo, di un capolavoro, almeno a detta della critica, però poco distribuito, la mancanza delle strutture. Certo. Sì, e soprattutto perché nelle strutture preferiscono far vedere dei film che fanno più cassetta. Riccardo, grazie, volevi dire qualcos'altro? Sì, volevo aggiungere la risposta. Sì. Prego. Io penso la squadra, l'Inter e poi il perché deve ridurre il debito che... Che debito hanno un po' tutte le squadre di calcio, ma che anche l'Inter. In effetti non so se ha la squadra poi dalla squadra dalla sua parte. Adesso che ha scelto Mancini, evidentemente con questa mossa qua voluto. Sì. Però non era lui, non era Toir. Grazie Riccardo. Grazie, buona domenica. Provato. Allora, teniamoci questi indizi o ne diamo un altro? Che facciamo? No, teniamoci le diamo? Sì, mi dice Lucia Tolve, perché lei c'ha il polso della situazione, certo, il centralino. Le linee ascoltatori sono calde. Annaspano, non ce la fanno. Allora, chiedono aiuti al centralino, pare. Aggiungo io questo indizio. Allora, pur non essendo una velina, ha i calciatori che le stanno molto vicini. Questo perfetto. È bello. Se conoscete questa notizia, capite, se no direte: ma di cosa stanno parlando? Vabbè, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. E non ci devo riflettere. Te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Eccolo qua. Questa è la sigla con cui introduciamo Federico Taddia. Ciao Federico. Torna a casa, eccolo qua. Ciao Federico. Vabbè, cosa dobbiamo dire? Ascoltatori Radio 24, Federico Taddia lo conoscono perché eri qua ancora prima che aprisse Radio 24. Ma soprattutto eri qua a sostituire Alessio fa, e a farmi da badante nelle ultime due settimane. Quindi un intreccio di destini. Finalmente siamo tutti e tre. Conduce l'Altra Europa, naturalmente, ogni sabato a mezzogiorno. E adesso il nostro inviato nel mondo del crowdfunding. Questa parola brutta, anche difficile da pronunciare. Hai sentito prima quella pronunciata di Nicola Giuliano, presidente di Indigo Fisso? Assolutamente. Ha avuto qualche tentennamento. Infatti è per quello che non faccio io l'inviato al nostro crowdfunding, perché con la mia R-Motion non sono neanche in grado di pronunciarlo. Intanto Federico, come nasce questa rubrica e cos'è il crowdfunding? Il crowdfunding è questa possibilità, appunto, una risposta al non me lo posso permettere. Ci sono persone che hanno idee, che hanno iniziative e lanciano la richiesta di un contributo di finanziamento per poter realizzare il proprio sogno. È un Portobello 2.0 anche, sì. Nel senso che ci sono idee che per essere concretizzate hanno bisogno di piccoli budget anche, che però può essere un budget alto se sei da solo, invece con l'aiuto di tutti ci si può arrivare a questa cifra. Quindi l'idea è quella ogni settimana di trovare, selezionare alcuni progetti a cui destinare simbolicamente, cioè 5 euro, c'è proprio una manciata di euro, che però sai è un po' la teoria della formichina, no? Una briciola ciascuno, certo. Si può tentare di costruire qualcosa di un po' più grande. E noi che abbiamo, insomma, non dico i potenti mezzi di Radio 24, ma insomma la possibilità di farci sentire da un certo pubblico, tu Federico sceglierai ogni domenica qualche progetto di questi meritevole, interessante a tuo giudizio e ce ne parli. Per esempio? Oggi partiamo con una scuola media, ed è la scuola media dell'Istituto Comprensivo Primo di Vittorio Veneto, questa è in provincia di siamo appunto in provincia di Vicenza, che c'è questa interessante ricerca. Hanno fatto una ricerca sull'arrivo del re e di Garibaldi nella loro città, quindi una ricerca come si fa a scuola, e hanno scoperto che nel centro della città, fino a pochi anni prima, c'era una bellissima statua di Garibaldi che ora non c'è più, e questa statua l'hanno ritrovata dismessa e diroccata nei giardini del parco di Villa Papadopoli, e hanno detto bisogna fare qualcosa. Quindi il secondo circolo vittoriese di ricerche storiche, insieme ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo da Ponte, hanno deciso di attivare un crowdfunding per restaurare la statua di Garibaldi. L'obiettivo è la raccolta di 8.800 euro, in 33 hanno già donato, rimangono 52 giorni. Adotta anche tu una statua, l'idea è proprio quella di riportare l'antica eleganza questa statua, perché possa essere riposizionata nel suo luogo d'origine. Garibaldi è un bel simbolo, dai, ci piace a tutti. E cosa deve fare uno se vuole donare i soldi? Allora, diamo subito la coordinata, che è crowdfunding.lineetaitalia.com, project adotta anche tu una statua, questo è il link per arrivare, e lì ci sono tutte le istruzioni. Si può donare da 1 euro a 100 euro. Poi la cosa bella del crowdfunding è che viene anche in anticipo raccontato come verrai ringraziato. Qui la ricompensa sarai citato, se doni un euro ti arriverà una mail di ringraziamento, se doni fino a 10 euro invece dai 10 euro in su il tuo nome verrà scritto vicino alla statua restaurata, quindi anche bello. A futura memoria. E se uno dà tutti gli 8.800 euro, quindi sotto c'è scritto Garibaldi più il tuo nome, vince proprio la statua. Esatto. Il secondo progetto invece che ho trovato è molto bello, si chiama Proteggi un'ape. Sono 8 amici, una biologa, un consulente zoologo, un insegnante, un fotografo e un'altra biologa, che hanno deciso di aprire una sorta di apiario collettivo nelle campagne romane di Castel di Guido. La loro idea qual è? Quella di fare educazione con le api e alle api, nel senso proprio ripristinare un antico alveare con le antiche tecniche, e ripristinando questo alveare educare anche i ragazzi, quindi lavorare con le scuole. E anche qui il target è basso, sono 3.000 euro quello che stanno cercando di raccogliere. Qual è la ricompensa? Il 10% di sconto sull'acquisto del miele, anche se dicono, e mi piace questo asterisco, la ricompensa è vincolata alla produttività della stagione, certo, e sarà inviata non prima di ottobre 2015. Dipende dalle api. Se sono educate o meno. E anche qua il link qual è? produzionedalbasso.com, proteggi un'ape, è il nome del progetto, molto bello, mi invito a visionare anche solo come viene raccontato, perché viene voglia di donare i nostri 5 euro. L'ultima invece, questa è un'idea che potrebbe ispirare anche Carlo, si chiama Nelle nostre case oltre l'oceano, si chiama Stefano Panzeri, è un attore milanese che ha trovato un bellissimo diario di un bracciante siciliano che all'inizio del Novecento emigra verso l'altopiano di Asiago per andare in guerra, per andare alla prima guerra mondiale. Quindi lui ha preso questo monologo, lo ha fatto diventare un pezzo teatrale, e il suo progetto è quello di andare a recitare questo monologo nelle case di emigranti di seconda generazione in Argentina e Uruguay. Quindi tra maggio e giugno del 2015 andrà in Argentina e Uruguay, busserà le case dei discendenti degli italiani che là sono emigrati per raccontare, per recitare se questo monologo. Se gli aprono la porta, esatto. E ha bisogno del biglietto del viaggio, diciamo. Ha bisogno del biglietto del viaggio, perché là vivrà di ospitalità e di baratto, però manca il biglietto del viaggio verso l'Uruguay. Qui il budget richiesto è sui 1.200 euro il costo del biglietto. Nelle nostre case oltre l'oceano è il nome del progetto, Stefano Panzeri .eu per tutte le informazioni. Anche qui è molto divertente. Come ci ringrazierà? Esatto, come si ringrazierà, perché le ricompense sono da aspetta, che sono da sono molto belle, eccolo qua. Cioè, 5 euro un grazie sui social, con 10 euro un video ti ringrazierà attraverso un video, con 20 euro ti manderà una cartolina d'oltreoceano, con 30 euro due posti per te per uno spettacolo in Italia, però con 50 euro porterà un souvenir a casa dall'oltreoceano. Molto dettagliato, molto. È stato molto dettagliato. Sì, perché il sistema delle ricompense è fondamentale, è incentivante. Nel crowdfunding, sì. È proprio... Mi mancano piace... 117 giorni alla sua partenza, però i sostenitori sono solo due, però insomma c'è ancora tanto tempo, quindi nelle nostre case oltre l'oceano è il nome del progetto, e mi piace la bizzarria che c'è dietro a queste richieste, perché molto. Vuol dire che veramente uno ci crede e ci crede tanto. E tra l'altro sono budget insomma accessibili. Grazie Federico. Grazie per questo primo appuntamento Federico. Con il crowdfunding, ci sentiamo domenica prossima. Si può fare, buona ciao. Domenica, ciao. Ciao. Mi piace molto questa rubrica, sì. Perché devo dire che la questione del crowdfunding, che sta prendendo sempre più piede, diventa molto difficile muoversi in questa selva, nel senso che quotidianamente arrivano, direi, a chiunque di noi proposte. Mail, proposte, dove dalle cose anche più terribili, tragiche, alle cose più, le invenzioni più strane e strampalate, diventa sempre difficile, perché giustamente ognuno di questi ti dice, ma dai, ho bisogno solamente di un euro, dammi 5 euro, solo che i progetti sono talmente tanti che giustamente bisogna un po' sapersi muovere, e noi diamo appunto una bella guida su come muoversi, orientarsi, naturalmente non esaustiva, ognuno poi si muove, sceglie quello che gli pare. Federico ognuno Padilla faccia i crowdfunding ci, ce ne presenta tre ogni domenica, esatto. Facciamo un ascoltatore prima del traffico, dai, sì. Claudia da Treviso, anzi no, Clarita da Roma. Claudia, vale, facciamo dopo. Clarita? Pronto? Pronto. Pronto. Buongiorno a tutti. Sì. La mia risposta, il ministro dell'economia e delle finanze Piercarlo Padoan. Per il debito, naturalmente. Qual è, sì, i calciatori che cosa, come stanno con Padoan? Ecco, l'unico dubbio era un po' quello. Era un po' quello del perché che non sia una velina, credo... è sicuro. È rimasto. No, sì, quello era sicuro. Però forse sicuramente ha parecchie persone che gli danno calci negli stinchi. Ecco, non questa bisogno, è però... ottima. Questa la cogliamo. I calciatori, i calci negli stinchi. Si è salvata la vita veramente alla grande. In corner, direi, per grande. Dirla sempre. Però ma no, qual è la notizia legata a Padoan di questa settimana? Sì. Vabbè, la notizia legata a Padoan di questa settimana, perché noi cerchiamo un personaggio che ha di solito una notizia, non di solito, sempre una notizia sul nella ministro settimana. Dell'economia ci sono sempre notizie, però sì, anche questo è vero. Dunque io mi ero basata sul discorso che chiaramente riduce il debito. Brava, ha fatto bene. Lui fa sempre riferimento alla squadra. Sì, giusto. No, va bene, Clarita, premiamo premiamo la poi sua... Lui normalmente la notizia, che hanno accettato forse l'UE, cioè ce ne sono tanti. Premiamo la sua intenzione, però non era Padoan. Non è Padoan, la ringraziamo. La buona grazie, domenica. Grazie. Tra un attimo, dopo il traffico. Scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con già annunciata Claudia che chiama da Treviso. Buongiorno. Claudia? Sì, sono qui. Buongiorno. Anche noi Buongiorno. Siamo qua. Buongiorno. Ci dica. Barbara Berlusconi. Ah, così? È per il quiz, supponiamo. Sì. Sì. Io ho sentito l'ultimo suggerimento indizio. Che avete dato e mi è venuto subito questa. Certo. E qual è la notizia legata a Barbara Berlusconi? La notizia è che il padre ha detto che lei rimarrà alla guida del Milan, se questa ho letto. Perfetto, insomma, purtroppo non è questo il personaggio che avevamo pensato, però siamo contenti e lo ringraziamo di aver richiamato. No, non è questo, no? Grazie Claudia comunque. Beh, insomma, in effetti ridurre il debito come tutte le squadre di calcio, la notizia c'era. Beh, era giusto anche che i calciatori stavano molto vicini, ma non era Barbara Berlusconi. Vediamo un altro ascoltatore, sì, vai, Davide dalla provincia di Grosseto. Sì, buongiorno, eccomi. Buongiorno. Eccoti. Allora, il personaggio della settimana chiamo per sì. La signora, l'anziana in Spagna di 85 anni che è stata sfrattata e la squadra di calcio, non mi ricordo quale, li pagherà l'affitto. E come si chiama la signora? Ed sì, sono macchi, no, questo proprio non me lo posso ricordare. E la squadra di calcio come si chiama? vabbè, dai. Ci devi dare tutti gli elementi. No, no, no, no. Carmelo, vai. Ecco, la risposta è quella giusta. Sì, sì, sì. La risposta è giustissima. Volevamo sapere quanto ne sapessi. Il personaggio è quello, naturalmente. No, perché sono in macchina, non mi sono potuto rinformare, diciamo. Ma comunque non bisogna informarsi, se no è troppo facile con Google. Se uno vuole può anche googolare, ma i nostri indizi in genere sono tali per cui bisogna arrivarci se uno la sa la storia, oppure poi proprio alla fine diamo indizi molto facili. Bravo! Si chiama Carmen, è una signora di 85 anni che siccome ha fatto da garante per i debiti del figlio, gli hanno credo pignorato la casa o qualcosa del genere, sì. È stata sfrattata, pensate a 85 anni, che situazione, nel suo quartiere abita un giocatore del Madrid, terza squadra della città di Madrid, e ha preso a cuore questa cosa e i calciatori hanno deciso di aiutarla e le pagheranno insomma l'affitto o il debito esattamente. Quindi bravissimo Davide, vince i biglietti e il catalogo della mostra di Chagall, che è a Milano, un po' lontana, ma insomma magari un viaggetto a Milano si può fare. Davide, devo venirci il 9, quindi. Bravo, perfetto. Allora, perfetto, siamo molto felici per te, grazie. Buona mostra. Buona domenica. Grazie, anche a voi, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Questa era una bella storia. È una storia bellissima, una notizia veramente bella. Commosso di lei, tutta la Spagna, ma un pochino commuove. Eh beh, sì, è molto bello, molto bello. A 85 anni, appunto, decide prima di aiutare il figlio dando in garanzia la propria casa. Poi il figlio ha dei problemi, quindi le portano via la casa, la sfrattano e tutta la squadra di calcio dice te lo paghiamo noi l'affitto. Un pensiero anche a quelle persone che nelle stesse situazioni non hanno trovato nessuno che gli ha dato una mano. Non hanno perché... un calciatore che vive nel quartiere. E meno male che a Madrid ci sono tre squadre, così insomma, ci sono almeno tre possibilità di aiutare tre persone. Giusto, beh, a Milano c'è il Milan, l'Inter, vabbè, poi c'è l'Armani del basket, non è che bisogna per forza, uno dice no, o me la paga una squadra di calcio oppure non accetti i soldi. Prima di chiudere vi vogliamo dare un'altra segnalazione, abbiamo parlato di crowdfunding poco fa con Federico Taddia, ma c'è un altro, in questo caso si tratta di un portale, un sito che vi aiuta a trovare finanziamenti per le vostre iniziative. Allora, Federica Sorge, buongiorno, caporedattrice di Finanziamenti News. Buongiorno a voi. Buongiorno. Il nome esatto del sito è Finanziamenti? Finanziamentinews.it. Oh, allora, un sito meraviglioso, un portale nel quale potete trovare una serie di informazioni su che cosa? Tutto quel mondo che ha a che fare con i finanziamenti istituzionali italiani, europei, i sussidi, gli aiuti che ci sono. Noi sappiamo che spesso un problema è che gli aiuti economici ci sono, Stato, Regioni, Comuni e Unione Europea prevedono di aiutare categorie particolari per trovare lavoro eccetera eccetera, ma poi si fa fatica a orientarsi in questo mondo. Dove saranno queste informazioni? Come si fa ad aderire? Ecco che arriva un sito che credo proprio che voglia rispondere a tutto questo, è vero? Assolutamente sì. Come ve la cavate, Federica? Come sta andando? Ma sta andando bene, il sito nasce a fine aprile, quindi siamo appena nati e devo dire che insomma in pochi mesi siamo riusciti ad affascinare il mondo degli imprenditori, perché devo dire che la grande difficoltà per le imprese è proprio ricercare queste informazioni, e l'altro problema è il tempo che quotidianamente occorrerebbe da dedicare a questa attività. Certo. Quindi noi fate una parte del lavoro per loro. Perfetto. E poi la cosa importante da dire è che è un sito che si popola ogni giorno, nel senso che i bandi escono in continuazione, la media sono 15-20 bandi al giorno che pubblichiamo. Però voi come riuscite a, diciamo, qual è il modello di business che avete in mente, se volete dircelo, cioè nel senso con la pubblicità, oppure è un servizio anche che può essere a pagamento? Come... No, sarà un servizio a pagamento. Dopo un mese di trial, le imprese, le società di consulenza dovranno attivare un abbonamento. Un abbonamento, certo, per pagare giustamente il lavoro che voi fate di lettura di questi bandi e anche di interpretazione a volte. Certo, credo, no? Tutti no, tutti vengono logicamente decodificati, perché questo è anche un aspetto importante. Diciamo, la maggior parte di questi bandi, di questi finanziamenti, da chi sono, da quali sono gli, da dove emanano, da chi vengono? Giusto per sono emanati a livello europeo, sì? Nazionale, sì? Regionale, e poi noi arriviamo fino a quelli provinciali e comunali. Addirittura. Sì, sì. E infatti il sito è diviso per categorie sicuramente, ma credo anche per, sì, anche per regioni, si può appunto accedere regione per regione. E questa è la cosa fondamentale, i bandi sono legati al territorio, quindi noi abbiamo creato una mappa dell'Italia, è sufficiente cliccare sulla regione nella quale si intende realizzare l'iniziativa e poi si possono selezionare soggetti, il soggetto beneficiario, l'ambito di investimento che si vuole finanziare e il settore economico. Finanziamentinews.it, il sito che davvero doveva essere prima o poi inventato e adesso c'è. Noi siamo grazie. In chiusura però direi, Federica Sorge, caporedattrice, grazie per essere grazie, stata con buona noi. Buona domenica. Grazie a voi. Grazie mille, in bocca al lupo. Allora, caro Carlo, ce l'abbiamo in chiusura, fatta, ce l'abbiamo anche fatta. Questo weekend. Sì. Ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con me il programma, così come anche Giorgio De Luca che adesso però è in vacanza a Napoli, sì. Diciamolo, il nostro, sì, il nostro redattore, assolutamente. Lucia Tolve, redazione oggi, Carmelo Ricella in regia, sentiamo sabato prossimo. Ciao, da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizi, ciao, buona domenica.